Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Cari amici di Blu Radio Veneto, un saluto da Francesco Galante, un saluto anche a Gianluca Codognato dell'Adico che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Buongiorno Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora, anche in questo nostro lunedì parliamo di un argomento che è attualissimo, parliamo di pacchi, non quelli che qualcuno si diverte a scartare in televisione per trovarci dentro o pochi soldi o anche, per carità, cifre importanti, ma sono i pacchi che apriamo perché magari abbiamo fatto un bell'ordine, perché no, attraverso qualche sito di e-commerce in internet e abbiamo voluto acquistare magari quell'ultimo CD risparmiando qualcosa rispetto al negozio, piuttosto che un paio di scarpe, piuttosto che magari un bel vaso di vetro, no? Sì, effettivamente è così, nel senso che in questo periodo natalizio o la persona stessa oppure anche tramite regali, insomma, diciamo che l'e-commerce, che in realtà in Italia non è ancora così sviluppato, diciamo che nel periodo natalizio invece conosce sicuramente un apice rispetto al resto dell'anno, e chiaramente in questo periodo abbiamo anche molte segnalazioni di problemi con merce che arriva effettivamente danneggiata. È un problema, no? Perché tu ordini, paghi, normalmente si paga con la carta di credito, con il PostePay o queste cose qui, o al momento della consegna anche si paga, ma poi quando si apre il pacco potrebbe verificarsi che abbiamo una amara sorpresa. Una amara sorpresa, potrebbe esserci appunto la merce rovinata, oppure anche un tipo di prodotto che non si era ordinato, diverso da quello che si era ordinato. E non è una cosa poi così rara, anzi è molto frequente. Noi all'Adico ogni anno, soprattutto in questo periodo, riceviamo molte segnalazioni relative ad alcuni corrieri di cui magari non facciamo il nome, però insomma in generale è un problema che riguarda questo tipo di consegna. E diciamo, Francesco, che chiaramente ci sono dei modi per difendersi. Sì. Anche da questo tipo di situazione. Allora spieghiamoli, perché magari spesso, insomma, può capitare che se arriva qualcosa di danneggiato è perché il corriere non è stato proprio così aggraziato nel riporre i pacchi nel furgone, piuttosto che... Assolutamente, questo è un caso frequente, c'è poco da fare, soprattutto con la merce più delicata. Facciamo una premessa, ecco, quindi il corriere quando va a ritirare il pacco si assicura che sia imballato bene, che sia sistemato bene, se no non lo ritira proprio. E quindi vabbè, facciamo questa piccola premessa. Poi però quando arriva la consegna in casa, molte volte poi l'acquirente quando apre il pacco trova la merce rovinata. Allora, il primo consiglio chiaramente che diamo è quello più classico, cioè vedo arrivare il pacco imballato male, rovinato, insomma qualcosa mi insospettisce. Allora io appongo la mia firma sopra la bolla di accettazione, però specificando con riserva. In questo modo cosa facciamo? Dichiariamo praticamente di accettare il pacco, ma comunque ci riserviamo successivamente il diritto di verificare che il contenuto sia integro. Quindi questo è un primo passaggio che si deve fare nel momento in cui si ha qualche sospetto o qualcosa, insomma, che non quadra. Quindi anche perché, chiariamo, il corriere non permette di aprire il pacco fino alla firma della bolla di consegna. Quindi firmiamo e mettiamo con riserva se abbiamo qualche dubbio. Qual è il problema? Non lo possiamo far sempre, perché il corriere potrebbe rifiutare questa firma con riserva nel momento in cui dica: ma guardate che il pacco è perfetto. E quindi teoricamente ci potrebbe essere questa situazione un po' imbarazzante in cui io non mi fido e dico: voglio firmare con riserva. Però il corriere mi dice: ma guardi che il pacco è perfettamente integro. Sì. Allora, in questo caso, se abbiamo dei sospetti, in questo momento l'unica cosa è dire: rifiuto il pacco, rimandatelo indietro. Quindi questo è un po' un passaggio un po' delicato. Comunque, sì, Insomma, ci sono queste due possibilità. E sapendo che una volta che si è accettato il pacco, la situazione diventa difficile. diventa difficile se la merce è rovinata. Ecco, quindi insomma bisogna essere oculati in questo, perché poi non si può fare tanto, o comunque magari può succedere che su un pacco che è comunque chiuso bene dentro troviamo qualcosa che non ci va bene. A quel punto bisogna ricontattare la ditta che ce l'ha spedito e vedere se con questa si riesce, esatto, ad ottenere, Francesco, qualcosa. Hai detto la cosa giusta, nel senso che allora tutto l'interesse della ditta, soprattutto per merce magari un valore così non eccessivo, e anche quello di comunque accontentare il cliente, non sempre è così però. E allora cosa resta da fare per l'acquirente? C'è il diritto di recesso, il famoso diritto di recesso, che nell'e-commerce è sempre previsto per legge entro 14 giorni. Però c'è un altro problema, ovviamente qua aggiungiamo problemi su problemi, però ovviamente noi siamo qua anche per questo, per risolvere i problemi. Qual è il problema? Che il diritto di recesso è consentito, però teoricamente bisognerebbe rinviare al venditore il prodotto integro e perfetto. Quindi c'è un controsenso in questo, certo. Io lo vedo rovinato e quindi utilizzo il diritto di recesso, però teoricamente dovrei mandare il prodotto perfetto all'acquirente. E là, ovviamente, a questo punto l'unica cosa da fare è affidarsi appunto o a un avvocato o ovviamente a un'associazione di consumatori che permette appunto di contestare poi il prodotto acquistato. Ecco, certe volte se il prodotto ha un valore basso conviene, come dire, prendersi la scottatura e basta, no? Perché sono più i soldi spesi che altro. Assolutamente. E in caso invece di merce di un certo valore, allora là appunto, come dicevo prima, si può intervenire tramite l'ufficio legale, tramite un'associazione eccetera, e qua si può fare una denuncia per danno occulto. In questo caso, sottolineiamo una cosa molto importante, il responsabile del danno occulto, se confermato, è lo spedizioniere. Questo lo dice proprio il codice civile. Ecco. Quindi in questo caso proprio io, se trovo il prodotto danneggiato, posso presentare questa denuncia. È chiaro che non è automatico il rimborso, oppure può essere che il rimborso sia molto molto basso, quindi insomma ci sono altre problematiche. Sì. E ripeto, in quel caso è chiaro che l'acquirente forse farebbe bene a non agire da solo, ma affidarsi a persone esperte per capire cosa può fare, cosa può ottenere. Ecco, anche in questi giorni di Natale l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, è praticamente sempre al lavoro. Siamo sempre al lavoro. Ahimè, vabbè, dai, insomma, quindi se serve, amici, sapete eventualmente a chi chiedere lumi. Io ringrazio te, Gianluca, e tutti voi amici dell'Adico per essere stati con noi in questo ennesimo appuntamento, ma continueremo a esserci anche in un prossimo, tra qualche giorno. E io ringrazio te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.